diretta dal CES 2011 di Las Vegas, va ora in onda Opencast Alpha. Opencast Alpha, puntata numero 5, quindi la sesta puntata. Dopo la pausa natalizia siamo tornati qui a parlarvi di tecnologia, di open source e di tutto quello che ci gira attorno. In studio, oltre a me, come al solito, c'è Coso e Loris. Abbiamo anche un ospite, l'invitato speciale. Che non è un inviato speciale, è un invitato speciale. Che chiameremo Ciao Ciao, come si è presentato. Ciao Ciao, infatti, sarei... Sì, perché è il suo nome. Ciao Ciao. Esatto. Di cosa parleremo in questa puntata? Ma perché chiedercelo adesso quando lo possiamo scoprire poi? E soprattutto perché non sappiamo. Perché di cosa parleremo in questa puntata? Così. Per esempio, già in fuori onda si stava parlando di cose interessantissime. Tipo l'orologio da polso in binario, un modello veramente interessante in cui hai dei bit per l'ora e dei bit per i minuti che si illuminano, può essere acceso o spento e fa 0-1 e quindi sì, ora che capisci che ora è già passata, esatto, quell'ora. C'è già la signora che dovresti... ti sta guardando. Scusi, che ore sono? Signora, sono le 1-0-0-1 sono... Esatto, glielo puoi mettere giù così. Sei proprio ratne. E dov'è che l'hai visto quell'orologio lì? Io l'ho visto su parecchi siti di commercio elettronico. devo fare è meglio non fare nomi, ma sì, no. Fai un nome, fai un nome, fai, dai l'IP, dai l'IP, allora l'IP è 0962, ma non è l'ora quella che è sempre casa di mia nonna a Catanzaro. No, play.com. Tra l'altro volevo chiedere a quelli di play.com se hanno intenzione di farmi arrivare quelle due ordinazioni che ho fatto prima di Natale. Ma potrebbero anche metterlo sul campanile a sto punto in binario, che... per piacere, già. Comunque sì, certo. Anch'io ho visto un orologio interessante su internet, però era un altro sito. Era playboy.com. Ah, interessantissimo. Era... Anche lì era in binario. Sì, anche lì aveva due cifre. Due sole. Binario tronco. Una a destra e una a sinistra, insomma. Sì, sì. Andava a cosce al posto delle lancette. Benissimo, il famoso orologio a cosce. Ma partiamo con delle notizie vere, interessanti come sempre, le notizie di Opencast. Ci trovate sempre su www.gl-como.it e se invece provate a fare gl-como.net vi uscirà fuori un sito cinese. Che in realtà non è la traduzione di gl-como.it. Cosa ne sai te? Ah, non è, ma è la traduzione. È la traduzione. È ah sì, cioè... quindi sono dei fan cinesi sì, che ci sì, ascoltano. Il fatto che sia diverso è perché loro hanno delle loro usanze per i siti, con per cui bellissimi... usano delle cose diverse. Ideogrammi, bellissimi. Allora, notizia prestissima. One Man News, eccolo qui, ecco noi questa sera. G8 e internet. Il prossimo G8 che si terrà in Francia potrebbe essere l'occasione per i governi di fare il punto su internet. Al centro delle discussioni dovrebbero esserci il terrorismo, la pedofilia, ma il vero scopo sarebbe quello di evitare nuovi casi. WikiLeaks. Ma sì? E con che pennarello lo fanno il punto su internet? Guarda, il punto su internet stanno chiedendo la Stabilo oppure alla Pellicano. Ma c'è già il punto, ma per non fare nomi e per non fare marche si vocifera anche di una Carandage, anche se insomma non è proprio una roba indelebile, però... Allora, qual è il problema di questa cosa? Ci sarà in Francia il prossimo maggio, se non erro, questa riunione tra i grandi e qualcuno vocifera che si potrebbero mettere d'accordo su limitare alcune funzionalità della rete, perché crea problemi ultimamente la rete, soprattutto col caso WikiLeaks. Cioè del tipo diventiamo tutti cinesi come vuole Marchionne? Sì. E andremo tutti a visitare glcomo.net. glcomo.net, quindi il nostro prossimo sito di riferimento. Quanton fritto. E da questo punto di vista glcomo è veramente avanti, perché noi abbiamo già il sito in versione cinese. Noi abbiamo ridotto le pause già da un pezzo. E noi non censuriamo, noi ci limitiamo a scrivere in una lingua che non capisce nessuno. E questo ci tenevo a dirlo. Quindi proseguendo con la news... Manco mia madre. Ecco, esatto. Il che è tutto dire. Bisogna un attimo riflettere su alcuni avvenimenti recenti. Per esempio, in Francia, non so se sapete che esiste la legge Adopi, che è questo è il nome dei... Adoc. Adopi, no, Adopi. Ma non ha l'accento sulla I. Adopi. Adopi può essere. Ci sui le più grandi vinicoltori della France meridionale. Tua. E la... perché il francese io proprio... Ecco, in pratica questa legge, ragazzi, questa è una cosa importante, è molto restrittiva per gli utenti. Pensate che se in Francia vi beccano a scaricare materiale coperto da copyright, potrebbero sospendere la vostra connettività a casalinga internet per addirittura un anno. Qua non ti dovevano mica arrestare. Illecitamente, sì. Ma la mia domanda è, qual è il materiale che non è protetto da copyright? Questa è una bella domanda. Il nostro Opencast, per esempio. In realtà è protetto dal copyright. Cioè, sì. È protetto dal diritto d'autore in sì, quanto diritto d'autore sì, però. Ed ha anche una protezione perché è rilasciato sotto una licenza. Teoricamente dovrebbe essere un'opera. Ah, non è... vabbè, il nostro è una canzonetta, però... Esatto, sono solo canzonette. Pensate invece che nel Regno Unito la Digital Economy Act, che è stata approvata nello scorso mese di aprile, consente al governo di ordinare ai provider di sospendere un account, una connessione internet, di coloro i quali sono solamente sospettati di violazione del copyright, cioè una sorta di caccia alle streghe. Quella l'ho vista che faceva un pollo alla diavola. Un stavo pollo alla diavola. Male. Quella l'ho vista che stava facendo un pollo alla diavola. E allora la dobbiamo. Quindi, signori, il futuro di internet per la connettività erano belli i tempi del 56K quando facevi. Adesso bisogna girare attorno a una gallina nera e sperare che si ripristini la connettività, perché i nostri provider, i nostri grandi G, i nostri grandi stati forse vogliono punti G. I nostri grandi stati, a parte gli scherzi, forse vogliono censurare un po' di più di quello che si fa adesso per la nostra sicurezza o per la loro. Scopritelo su Opencast Alpha. Bravo. Hai sentito la bufala della settimana? Non sono passato di recente né in Puglia né in Campania, però magari faccio una telefonata. La... non ti chiama? Le uova di bufala alla diossina. Le uova di bufala alla diossina. E andiamo sulla rubrichetta genetica dell'Opencast. Le uova di bufala. Rubrichetta modifiche genetiche. Sì? Quindi? Non so, è lui che parlava di uova di bufala. Allora dici. Ma ho visto una bufala lì accovacciata che faceva un uovo. Non era un uovo, anche se era vicino Pasqua. So cose brutte. Ma mi volete dire che la bufala tira fuori la mozzarella già così? Eh certo. Ah, quindi sembra un uovo? Eh certo. Ah, hai capito. Parliamo di questa bufala, per favore. Parliamo di questa bufala. La bufala che è girata questa settimana, che Facebook avrebbe dovuto chiudere il 15 di marzo. Ah, ho capito. Era girata questa. Cosa hanno fatto il classico gruppo, se non arriviamo a 80 miliardi di persone chiude Facebook? Ma non lo so esattamente, pare che sia partita uno di quei siti di notizie false, un po' come il nostro Opencast, ma queste notizie potremmo lanciarla anche. Allora, se non arriviamo a 1,5 milioni di spettatori entro questa settimana, ragazzi, purtroppo dovremmo far diventare 100 miliardi di telespettatura. Dovremmo far diventare a pagamento questo programma. Vuol dire che pagheremo la sala prove. Ehi, tu che ci stai ascoltando piratamente. Tu che ci hai trovato da internet. Dalla Francia. Tu che ci hai trovato su un canale torrent pensando fossimo materiale illegale. Ma un po' siamo illegali, Tu che pensavi fosse un video qua. Tu che pensavi fosse. Se vuoi mettiamo delle musichette. Sì. Sì, la do. Andiamo anche sul musicale con le note. Benissimo. Passerei avanti con le notizie a questo punto. Ah, quindi la bufala della settimana, grazie Fabio. Prego, magari chiudesse. Il vicepresidente invece ci doveva dire una cosa importante. È appena stato rilasciato Drupal 7, un CMS veramente avanzato che in quest'ultima versione sarà ancora più semplice da installare con molte funzioni in più. A chi è che è avanzato? A chi è che è uscito? È avanzato dalla comunità che sviluppa Drupal, sì. Dal pranzo di Natale. Guarda, scusa un attimo, volevo fare veramente i miei sentiti complimenti al vicepresidente che ha saputo rigirare la frittata senza fare una piega. Bravissimo, veramente professionalissimo. Sembri uno di quelli che gestiscono le testate giornalistiche online, che hanno fatto per anni la roba scritta e hanno il coraggio di mettersi davanti a un video a fare i video. Il TGcom. Non facciamo nomi. No, prego, non facciamo nomi, che hanno il coraggio di... Quindi è uscita la nuova versione di Drupal. Esatto. E che novità particolari si porta dietro? C'è il changelog sul esatto, sito. Esatto, potete andare a consultarlo e potete scoprire lì tutte le novità. Cambia il numero di versione. Ah, quello okay, sicuramente, siamo arrivati alla 7. E quali famosi siti sono... usano questo supportati supportano sono supportati nel loro funzionamento quotidiano da ci sono una moltitudine di siti adesso senza fare nomi ovviamente ci sono questo quell'altro infatti c'è un www.poiqualcos'altro.it. allora, io senza fare nomi vorrei far notare ai nostri cari ascoltatori una cosa molto interessante, perché loro non vedono. Mi è piaciuta molto la scena del vicepresidente nel momento in cui si è posta una determinata domanda. Quali siti... C'è stato questo movimento di braccia verso l'avanti e la faccia che si è ritratta verso il dietro, soprattutto a livello labiale, gli occhi che si sono diventati grandi, lucidi. A mo' di punto di domanda. Direi paonazzo. E poi con un comportamento ineccepibile ci ha detto, quello che ci ha detto. Esatto. Grazie vicepresidente, ti stimiamo tantissimo per questo. Comunque ragazzi, io volevo solo dire una cosa, finalmente Windows Phone 7 ha il copia e incolla. Evviva! Grazie ragazzi per... Era ora. Grazie. Dovremmo mandare in giro il nostro link su Windows Phone 7. Ma sai che l'avevamo già detto quello del copia e incolla? No, ma adesso è ufficiale, è dentro. Ah, è ufficiale, perché erano delle voci. Probabilmente hanno sentito che il nostro suggerimento del copia e incolla dei KGN, delle crack. Hanno detto che il 25 l'hanno passato a lavorare per mettere il copia e incolla. Perfetto. E dopo il copia e incolla va ora in onda intervallo. Dici intervallo Android, perché noi ci piace parlare di Android. No, non iniziamo. È un momento di intervallo. Allora ragazzi, devo dire una cosa importante. Allora, noi abbiamo sempre remato, diciamoci la verità, abbastanza a favore di Android. Realtà aumentata, pipim pipam, su e giù, ci piace anche l'iPod, l'iPhone, l'iPhone, però attenzione, è uscita una cosa nuova, non è un'applicazione per Android. è una cosa, io vi dico il nome e voi lo capirete. Android, hai un problema. Hai un problema. Scritto è... Esatto, hai un problema. Purtroppo molti terminali Android... È la Apple che si sta remando contro. Sì, assolutamente. Secondo me c'è qualcuno dentro Google che lo stanno pagando per dire lavora male, fratello, perché... Ok, ci abbiamo tanto bisogno, mi faccia lavorare. Allora, che cosa è successo? Brevissimamente, niente, voi col vostro terminale Android ogni tanto potrebbe capitare che scrivete un SMS, che ne so, alla mamma, e questo SMS arriva a una collega di lavoro. Perché succede questo? C'è un bug nell'interfaccia grafica. Succede nel momento in cui voi non aspettate che l'interfaccia grafica sia completamente carica. Forse è un problema che affligge l'utente un po' più avanzato, perché insomma l'utente medio, bene o male, non è veloce più dell'interfaccia grafica, però tanti sono vado subito lì. È un bel problema, cioè invia SMS alle persone sbagliate, anche se voi avete messo il destinatario giusto, lui lo invia da un'altra parte. Ah, proprio a caso? Sì, a caso, è un bel problema, Addirittura hai qualcuno... scritto un messaggio a Bill Gates? No, mi sarebbe piaciuto per fare i miei complimenti per i suoi progetti africani. E no, basta per fare i miei complimenti. Questo è... Fabio, tu cosa ne pensi? Ma io sono molto interessato da questa notizia, specialmente perché non uso Android, per cui proprio la sento come una cosa che non... Tu che sei ancora un Symbian. Esatto, per cui il mio cellulare... Tu che stai nella caverna. Qualcuno, tu che stai nella caverna dei sistemi operativi dei cellulari. Sì, però quando io un messaggio lo mando a chi voglio io. Ah, giusto. Hai mai ricevuto un messaggio da Fabio? No. Ecco. Ti spiegano molte cose adesso. Non te li mando. Però ho ricevuto spesso dei messaggi con scritto, come? Non capivo come mai mi arrivasse il niente. Si vede che insomma. Va bene, dai, facciamo una piccola pausa, ascoltiamoci un altro brano musicale. Io vado in bagno, Va bene, ci vediamo dopo allora. Castle Magic con Lady Go su Opencast Alpha, il podcast tecnologico spensierato del gruppo Linux Como. Non erano i budini molli? No, i budini molli ce l'abbiamo dopo la fine. Sì, i budini nel molli. Nel frattempo qua grasse risate per battute oscene che non vi riporteremo per appunto pietà. Nel frattempo, ma riportiamole invece. Ma direi anche di no. Andiamo avanti con le nostre news. Tanto per cambiare, come ci dicono alcuni nostri fedelissimi ascoltatori, ci dicono: ma ci piacciono gli approfondimenti che fate di solito su determinate notizie. No, su no, dimmi settori. Chi te l'ha detto sta cosa qui. Ho sentito in chat un nostro fan accanitissimo. Era tua mamma. No, ma sai quando capita in chat che tu scrivi ciao e subito esce fuori ciao. Come stai? E subito esce fuori come stai? E poi ti rendi conto che stai scrivendo te stesso. Ah, ecco, ecco. Però anche funziona una volta con alcuni client ancora. Sì. Mi facevano dei segni della regia. No, ci stavi raccontando prima delle nuove pubblicità di questa compagnia di connettività internet. Allora, ragazzi, la Fastweb mi ha fatto la pubblicità veramente su, cioè una roba oscena con George Clooney. Va bene? L'avete vista tutti, guardate in televisione, cioè veramente questo arriva dall'aeroporto, ok. Allora io volevo dare un suggerimento. È geloso. Si arriva all'aeroporto, ah, benvenuto in Fastweb, sì, grazie, ok, adesso ci faranno querele, quello che volete. No, in realtà io voglio soltanto dare un consiglio ai dirigenti Fastweb. Ci sono delle bellissime idee che potreste mettere in campo voi come, come società telefonica di offerta telefonica internet di voglia. Per esempio, a me mi è venuto in mente proprio in un minuto. Non è che dovete fare questa, però è semplice. Allora ci sono due bande rivali. Sì, c'è un sole cocente, arrivano in moto. Ci sono quelli super fichi, vestiti super di nero e anche un po' di rosso. E arrivano gli altri, ci sono gli altri dall'altra parte con le altre moto ancora più grosse. Questo sole cocente, si sono dati appuntamento per una sfida. Giorno di fuoco. Si sono dati appuntamento per una sfida tra bande. C'è una piccola cosa, un piccolo particolare. Da una parte c'è una banda di bei fustacci, belli, messi bene. Dall'altra invece sono tutti... Pazzi! Sì, abbastanza. Dall'altra invece sono tutti grossi, piazzati, quasi un po' grassi. Insomma, semenano, partono pezzi di moto, marmitte, cose, carburatori, di tutto, di più. Un braccio! Serbatoie, vince la banda di quelli un po' più grossi. Chi l'avrebbe mai detto? Chi ci avrebbe scommesso? Questi si girano, hanno la scritta Fastweb sulla loro giacca di pelle. E dicono, siamo noi la vera banda larga. Ecco, sì. Vabbè, io sarei interessato a sapere cosa ne pensa un dirigente Fastweb. Se vogliono, noi l'indirizzo dell'Oris glielo diamo, non è un problema. Ah! Stai soffrendo. Scusate, mi ha tirato un pugno uno della banda rivale, maledetto. Ah, ecco. Tieniti la tua maledetta box televisiva. Era uno di Fastweb. Beh, comunque stavamo scherzando, ringraziamo entrambe tutte le compagnie telefoniche e speriamo che manterranno una banda minima garantita adesso che internet sta diventando veramente per tutti. E una volta quando non si vedevano i video dicevano che era meglio, però anche no. Passiamo alle notizie importanti. Perché ce ne sono di importanti? Sì, devo parlare sempre io. Davide? C'è le notizie. No, parla no, pure. Tu avevi una cosa da dire, perché io... Ma guarda, io in questi giorni sto lottando veramente con KVM. È un sistema bellissimo, peccato che non trovo un cavolo di processore per farlo girare. Vabbè, che scusa, perché hai bisogno di un processore particolare? No, serve solo un perché, processore. Scusami, hai computer senza processore a casa? No, ce li ho i processori sui computer. Il problema grosso è che servono delle istruzioni particolari per farlo girare. Servono le VT di Intel oppure non mi ricordo che cosa. Ma di AMD. Ma perché non ce l'hai il manuale? Manuale delle giovani marmotte. No, quello no, quello no. Non in quel senso. Mi manca. Però ci stiamo lavorando. Rimanete in attesa delle dei nuovi sviluppi di KVM. E che cosa te ne vorresti fare di tutto ciò? Niente. Allora. Sentite, cazzo, era una... Non si può dire, è caduta. Era una caramella, al miele buonissima, di una marca Fastweb, penso, non lo so. Che non possiamo dire. Adesso io me la sono messa in bocca. Perché è buonissima e c'ho bisogno, altrimenti mi metto a sostituire. Direi che non si sente che hai una caramella in bocca. No, si sente che è una... Sentite. Diciamo che è una caramella, carta. Va. Diciamolo. Allora, avevo un mio foglio con degli appunti, ma non riesco più a trovarlo. Va bene, vai a braccio. Andiamo a braccio. Che cosa è successo sulla scena console? Cos'è successo? Importante ultimamente. Cos'è successo sulla scena console importante? PlayStation 3. Ultimamente. Tanto per cambiare, è la nostra preferita, a quanto pare. È stata praticamente violata in modo totale, dicono. C'è stato un epic abuso! Fail, un epic fail del sistema di sicurezza di Sony. Perché, ne volevi una anche tu? Non so. Comunque me lo ricordo. C'è stato un epic fail nel sistema di sicurezza di Sony perché è stata trovata la chiave master, quella che serve a, insomma, decapitare. Il mastro di chiavi. Bravo, proprio il mastro di chiavi. E insomma, si stanno affacciando sulla scena dei nuovi firmware. Guardia customizzati. E non serve modificare la console in alcun modo se non, tra virgolette, via software. Basta eseguire un aggiornamento software con questi custom firmware che sono disponibili in via non ufficiale da qualche parte in rete e sarete in grado di far girare del software homebrew sulla vostra amatissima console. Per ora solo software homebrew. chi ha sviluppato questa cosa, Geot in primis, dice che non vuole fomentare la pirateria, quindi non supporterà il file manager per far girare i vostri backup o per creare nuovi backup. Tuttavia c'è già chi è al lavoro per aggirare questo sistema. Per esempio è stato già fatto girare un titolo Castlevania sfruttando delle falle nel sistema PlayStation Network. Praticamente vengono presi dei file da PlayStation Network, gli si fa credere al gioco che è stato scaricato legalmente, eccetera. Beh, comunque, questo per dire che Sony è in un bel po' di guai, forse è in una bella situazione. Io ho sentito per risolvere questo problema Sony dovrebbe cambiare l'hardware. È vera come cosa? Si vocifera che sia un'unica soluzione. Sony ha detto che ci penseremo noi agli hacker, se la vedranno con noi, faranno dei massicci aggiornamenti software. In realtà per la scoperta che c'è dietro c'è il rischio che con degli aggiornamenti software si possa in qualche modo risolvere questa palla, ma con il rischio di tagliare fuori dei titoli, magari si rischia di far diventare il software uscito fino adesso incompatibile con la PlayStation, quindi è una cosa infattibile praticamente. Bene, quindi al momento è possibile far girare dei software homebrew fatti in casa, quindi si apre una bella scena su PlayStation 3. C'è già qualcosa di interessante? Sì, ci sono degli emulatori interessanti della PlayStation 1, del vecchio Sega Dreamcast, delle console di vecchia generazione più famose come il Genesis, Mega Drive per chi è più europeo. Nano c'è e soprattutto ricordiamo perché è successo tutto questo, alcuni sostengono, da quando Sony ha tolto il supporto ai sistemi Linux, gli hacker si sono un poco arrabbiati e hanno detto: noi vogliamo Linux su questa console, bella mia, e adesso noi ce lo rimettiamo. E infatti adesso si può far girare nuovamente Linux. Gli hacker sono proprio bastardi quando ci si mettono. Sono proprio... Però qualcuno sostiene anche che stanno facendo un bel favore a Sony. Sì. Big fail, però è durato 4 anni questo sistema violato di sicurezza. Ponderate, gente, ponderate. Beh, questo vuol dire che nessun sistema è inviolabile? Questo significa che nessun sistema è inviolabile, oppure che qua nessuno è fesso, se ti danno una chiave usala. E qua vorrei... Anche questo mi ricorda un titolo di un film che ho visto. La chiave era si titolava proprio tipo così: se ti danno una chiave usala. Bene, non aprite quella porta, esatto. E andiamo avanti. Ecco dove era il foglio. Sentiamo il foglio. È arrivata la notizia. Allora, me ne parlerà adesso il vicepresidente. Che vorrei ancora una volta commentare alzando il braccio, esatto. Mettendo la mano, le quattro dita unite con il pollice. Unendo le falangi. E muovendola in su e in giù. Che non so cosa... Vabbè. Microsoft, di fare parlaci un po', presidente, vicepresidente, di Microsoft Windows 8. Qual è la notizia importante? Notizia importante di Microsoft Windows 8 è che supporterà architetture ARM. Ah. E qui tutti gli altri si sono seduti e hanno detto Microsoft. Beh, era ora. C'era traffico? Vi siete persi? Ah però. Quindi, vicepresidente... Questo cosa porterà? Questo porterà che sarà possibile anche installare sistemi come Windows su architetture con ARM. Aspetta, forse è meglio ripeterlo. Sarà possibile, se non avete capito, installare sistemi come Windows su architetture ARM. Allora, passiamo agli esempi. Tablet... smartphone. Beh, ma non è mica detto, magari su Itanium c'è chi... Magari verranno creati dei sistemi netbook, per esempio, no? Magari consumano poco, hanno anche delle prestazioni decenti, al contrario dell'architettura x86. E ci metti su Windows? Atom and Company. No, non ci metto su Windows, no. Però magari, sai... No, cioè, diciamo, lo vuoi utilizzare o no? Sì, io ho solo una domanda. Già Windows supporta le architetture x386, insomma 32 bit, e le architetture a 64 bit. Ma facciamo 63. E già a 64 bit ci sono difficoltà a trovare i software. Chissà per ARM. Esatto, a questo punto mi chiedo, una volta che io ho Windows installato su un processore ARM, che cosa ci installo? Il sistema operativo. e basta? No, ce lo installo ancora sopra. Ah, sul sistema operativo? Sì, sì, sì, sì. No, perché per dire, me hai Paint, installare... hai il blocco note, ce n'è di certo, roba. Ci sarà una versione Office ottimizzata per ARM. Se riesci con Wubi, puoi usare un sistema operativo quasi decente. Sì, eh. Sì, in effetti... cioè, la questione è una questione. Una per dire, un Android, avendo la sua bella macchina virtuale Java sotto... fondamentalmente le applicazioni girano e siamo d'accordo. Un sistema operativo Linux su ARM c'è tutti i software che vuoi, se non c'è te lo ricompili. Ma su Windows, cioè, già sul Mac hanno avuto problemi quando hanno cambiato architettura, hanno dovuto fare i binari universali, che poi è lo stesso in un pacchetto solo, ti metto dentro tutti e due i programmi compilati per le due architetture. Non se ne parla più. Non so che cosa ci sarà, sarò molto curioso di scoprire. Vedremo, vedremo. D'altronde è una scelta in qualche modo molto comprensibile, visto che la tecnologia delle batterie sono anni che dicono facciamo quella col liquido, facciamo quella che va col fieno, facciamo quella che va con l'elicottero, ma sono sempre quelle lì le batterie. Quindi o abbassiamo i consumi o abbassiamo i consumi. Al CES di Las Vegas in questi giorni stanno presentando tantissime soluzioni, per esempio di tablet dalle alte prestazioni con Windows 7 e con Core i5 con la batteria che dura 45 minuti, penso. Core i5? i5. Sti parti ciufoli. Sì, la batteria. Sì. Sì. Batteria. Sì, c'è un cavo, c'è un modello c'è un modello che ha come accessorio una batteria da mettere nel sulla schiena. No, ma proprio nelle feature, processore i5 e poi c'è su durata i5 minuti per provarlo e poi ci spiace. Per quello che si chiama i5. Ci spiace. È così. Però hanno fatto un notevole passo avanti con l'ottimizzazione dei consumi con l'i7. Perché i7 dura molto di più. Esatto. Noi ci speriamo speriamo di hai più tempo prima ci o poi. Ci speriamo. No, vedremo come andrà su ARM, se mai uscirà, perché vedremo. Ragazzi, cosa avete ricevuto per Natale? Ah. Io avevo chiesto la Panda Bordo, ma nessuno di voi me l'ha regalata. Non te l'hanno regalata? Come, io ho scritto esplicitamente a Babbo Natale per farti portare la Panda. Ma sei sicuro? Non l'hai trovata in garage? L'ho trovata una rossa. Ma magari il bug di Android che l'hai mandato a qualcun altro, quindi... Porca miseria, guarda un po', c'hai ragione. Vuoi dire che Babbo Natale usa un terminale Android? Che fregatura, sì. Ma porca miseria. Cavolo, Babbo Natale, ma anche ci devi pensare, no? Glielo passa a Google, glielo passa. Sì, secondo me. Chissà chi l'ha portato adesso quella Panda Board. Magari qualcuno che non se ne fa niente. Il viaggio lo organizza con Google Maps. Ah, infatti... Sì, fa bene. No, ma comunque Babbo Natale ci sta dentro che lo organizzi con Google Maps, perché comunque lui viaggiando in aria non è che va addosso alle cose. Se invece va in macchina con Google Maps, ogni tanto potrebbe capitare, per esempio, svolta a destra, ok, sì, oh, una palazzina, guarda che cosa c'è di bello, l'albero. Comunque, storia di vita vissuta, l'altro giorno ho scoperto quanto è molto più preciso OpenStreetMap rispetto a una qualsiasi altra mappa di quelle che ci sono sul web. Perché hai trovato una fontanella? No, perché cercavo una via in un paese che secondo tutte le mappe non esisteva. C'era questa via in questo paese che io cercavo su Google, su Yahoo, su pagine bianche, su via Michelin, su tutto città, ovunque, non esisteva. Su OpenStreetMap l'ho trovata ed effettivamente era quella giusta. Guarda che se scopro che l'hai taggata a te. No, ho scoperto che le altre mappe ce l'avevano, ma segnata con un nome diverso. La potenza del social. Ma questo molto probabilmente perché compreranno i dati geografici dalle stesse... Sicuramente, però sbagliati. Anch'io stavo cercando qualche giorno fa in una grande città una struttura e ho visto il cantiere di questa struttura in costruzione, perché la foto satellitare era di 3 anni fa. Foto satellitare, ok, ma il nome della via. Vabbè, sulle foto non ti puoi basare perché diventano sempre vecchie. Per dire, io continuo a guardare le foto satellitari di casa mia, ma io non mi vedo mai. Cioè, se io esco in cortile tu stia e saluto sopra, sei mesi l'anno in cortile o sul balcone? Ho provato a uscire in cortile con il computer e un cartello grosso, ma non mi sono visto. Anche aggiornando la pagina. Niente da fare, io invece stavo cercando di vedere dall'alto la scuola leghista, niente da fare neanche. Per vedere i segni lì. Infatti, secondo me Google dovrebbe fotografare queste cose un po' tipiche, prima che gliela fanno togliere. Vabbè, basta andare a fare delle foto e taggarle. Bene, allora... perché io taggo. Taghi, grande. Taghi. Nonostante abbia ormai... Ormai c'ho la mia età, grazie. La tua età, tu taghi. Ragazzi, noi qui abbiamo un taggatore di fontanelle però. Esatto. Vicepresidente, vogliamo... Dici qualcosa delle fontanelle che tagghi. Le fontanelle sono un tag veramente importante in OpenStreetMap. Su OpenStreetMap si può taggare praticamente di tutto. Fontanelle, edifici, panchine, cartelli. Scusi, per panchine intende ragazze punk di una certa misura? Anche. Ah, ok. No, era solo per sapere. Vabbè. E quindi se andiamo su OpenStreetMap troviamo tutte le panchine. Tutte le panchine, per tutte cui le se io cerco un indirizzo esatto. Tipo Parco della Vittoria, panchina 13. Esatto, potresti. Quindi, signore e signori, OpenStreetMap è un software che trasmette emozioni e per emozioni non abbiamo nulla a che fare con gli emo, grazie. Ragazzi, se non avete niente a che fare, taggate. Va bene, su queste note di incitamento alla condivisione, cosa? Direi. Chiuderei questa puntata di Opencast Alpha, questa puntata post-natalizia, la prima del 2011. Vi auguriamo un buon anno, ovviamente, che non l'abbiamo ancora fatto, ma ve lo auguriamo. Assolutamente sì, buon 2011. No, lo stavo cercando di convertire in binario, ma non ce l'ho fatta. Invece in esadecimale? 2011 in esadecimale. Sì. Ecco, vai. Dai, non vuoi, dai. Ma cosa? Dai, forza, no, adesso è tutto il tempo, no, convertiamo. Intanto che lui ci pensa, io vi ricordo che tutte le notizie di cui abbiamo parlato questa sera le troverete sul nostro sito www.glcomo.it, che le canzoni che avete ascoltato sono in Creative Commons, arrivano dirette fresche da Jamendo, troverete il link anche a questo sul nostro sito. Liberamente direi scaricabili senza che vi sospendano la connessione per un anno. Non lo so. Se ci seguite dalla Francia. Se ci seguite dalla Francia potete scaricarle, anche perché pare di sì, perché comunque il sito è prevalentemente francese. Ah, Jamendo. E per cui direi i saluti a tutti quanti. È l'unica cosa che so. Me dispiace. Ciao. Si chiama Elen. Ciao. Ciao a tutti da Ilario. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico di impegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it.